Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Vi ascolto tutti i giorni, anche di notte. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Maglia dell'Italia bisogna averla tatuata sulla pelle, secondo me deve essere una seconda maglia, al di là del club che poi uno può avere a cuore o no. Sarà sicuramente un grande orgoglio per me, come per Antonio e come per altri giocatori nati a Roma, giocare martedì. In gara è stata dura, avevo un buon passo sul bagnato ma ci ho messo un po' per arrivarci e Orge è stato più bravo di me e quindi mi è andato via, però sapevo che la gara era lunga e poi ho visto che però anche Orge era in difficoltà con le gomme, poi ha fatto un errore, quindi comunque essere riuscito a guadagnargli 4 punti era il nostro obiettivo e quindi siamo molto soddisfatti. Una Ferrari che volava con Sebastian Vettel, possiamo ufficialmente dire che state facendo le prove di mondiale per il 2016? Adesso intanto continuiamo a fare le prove per le gare del 2015, poi nel 2016 vedremo. Comunque volava, sì, volava. Tempo scaduto, l'Albania vince a Yerevan e conquista per la prima volta nella sua storia la fase finale di un europeo. È il trionfo di De Biasi, l'Albania può far festa. Riassunto sonoro di tutto ciò che è successo nel weekend e di tutti gli argomenti di cui parleremo, ma ce ne sono molti altri. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Daniele Giovanni Melchiori in redazione, e poi ci sono grandi temi, no? Così ci sono le parole di Tavecchio, ad esempio ieri, sempre nel weekend, oltre al secondo posto di Valentino Rossi che profuma di mondiale, oltre a Florenzi che diceva la maglia azzurra dobbiamo averla tatuata sulla pelle, i tatuaggi non mancano sulla pelle dei calciatori, la maglia azzurra sembra un po' un tatuaggio un po' sbiadito vista la settimana che abbiamo passato, ma tant'è. C'è Vettel secondo ieri a Sochi nel Gran Premio dei Colbacchi e secondo, anche questo è ben più importante, nella classifica mondiale piloti. Sarà un risultato da cercare di ufficializzare alla fine con tutte le forze possibili, perché sarebbe per la Ferrari un grande risultato sportivo. E poi ci sono state le qualificazioni europee che a me hanno dato una sensazione, cioè quella, abbiamo sentito dell'Albania di De Biasi che si è qualificata per la prima volta nella sua storia alla fase finale dell'Europeo. Gianni De Biasi, nostro amico, l'avremo domani ai microfoni per far festa insieme, l'ho visto anche con qualche lacrimuccia dopo la partita, mi dico Gianni. Comunque la sensazione che mi è rimasta è quella di una nuova Europa che sta nascendo, non più un'Europa episodica come fu tanti anni fa per la Danimarca campione, come è stata per la sorpresa della Grecia campione, ma un'Europa che si sta concretizzando. Parlo del Belgio, ad esempio, del Belgio si parla fin dai mondiali, è una generazione di grandi talenti. Parlo della Polonia, che in questo momento ha il fenomeno più fenomeno che c'è tra i centravanti del calcio europeo, anzi del calcio mondiale, e si chiama Robert Lewandowski, che ieri ha segnato ancora un gol pazzesco, tra l'altro un gol di testa su un cross molle, di quelli che insomma gli attaccanti normalmente riescono a deviare verso il portiere, invece tirando una fucilata di testa che ha significato il gol della vittoria per la Polonia sull'Irlanda, che dovrà sull'Eire, che dovrà andare agli spareggi. In questa nuova Europa c'è l'Albania, c'è le Irlande, tutte e due, perché l'Irlanda del Nord, come sapete, è già qualificata, quella l'Eire invece appunto affronterà gli spareggi. C'è l'Islanda e il Galles, due squadre che la seconda a bene è vero. L'Islanda gioca invece un meraviglioso calcio con un sacco di bravi interpreti forgiati all'estero, e sono movimenti che fanno vedere continuità di crescita e di risultati, mentre la vecchia Europa, quella che conosciamo, vede l'Italia, la Francia, la Spagna in un momento, diciamo così, di rifondazione, no? Di ristrutturazione, o suggerite voi se volete un'altra parola, 800 24 00 24, numero verde. L'Inghilterra che è l'eterna incompiuta, l'Olanda che è nella polvere, che più di così si muore, non si qualificherà per gli europei, la Germania che pure stenta. Questo mi sembra un altro, un bel argomento, ma l'argomento principe da cui partire e interrogare anche voi è quello relativo al nostro CT benamato Antonio Conte. Allora, ieri con queste parole di Tavecchio è partita ufficialmente l'operazione Rinnoviamo Conte oppure no? In questo momento noi siamo con tutta la massima collaborazione professionale, perché non è detto che chi ha in mente di cambiare non si comporti bene. Noi abbiamo la speranza di tenere Conte. Se Conte vorrà restare, qui è il suo per noi posto migliore. D'altro canto siamo servi di tutti ma schiavi di nessuno. L'idea è che Conte, ingiudicabile fino a questo momento perché ha semplicemente fatto il minimo sindacale qualificandosi nel modo, in modo del tutto semplice per i campionati europei, semplice nel senso che non abbiamo avuto grandi difficoltà, ha pilotato la squadra a velocità di crociera e agli europei ci siamo arrivati. Un CT però non può essere giudicato da questi particolari, perché di particolari si tratta, la qualificazione non europeo, ma dal risultato della grande manifestazione. E so che su questo sono d'accordo con Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Come va? Bene, tu? Molto, molto. Ne parlavamo anche ieri, magari saremo ripetitivi, ma per chi non fosse stato in quel momento collegato la pensiamo alla stessa maniera, cioè si fa tanto parlare sul lavoro svolto da Conte fin qui. Il lavoro svolto da Conte fin qui è buono, è il minimo sindacale, abbiamo detto, però ogni CT, come dicevi giustamente lui, gli allenatori non si valutano dalle qualificazioni. Mai, più, mai. Quello mai. Che ha fatto Conte non è stato né clamorosamente positivo, cioè non è che ha vinto tutte le partite 5-0, che siamo andati, che abbiamo spaccato la Croazia, o insomma ha dato delle dimostrazioni così clamorose, e nemmeno però negativo, cioè ha fatto pienamente quello che doveva fare. E quindi, oltre al discorso di partenza, ieri citavo l'esempio di Capello, della famosa campagna di qualificazione mondiale 2010 in Sudafrica, dove vinse le prime 9 partite, record assoluto della storia dell'Inghilterra, e poi è arrivato al mondiale è andata male. Quindi già quando fai delle cose eccezionali delle qualificazioni comunque non basta, no? Figuriamoci poi certo. se fai le cose normali. Però devo dire la verità, insomma, applausi a Conte, penso che comunque l'obiettivo è stato raggiunto ed è quello. Poi tutto adesso bene, gli tutto si chiede tutto bene e vediamo cosa succede adesso quando gli si chiederà di vincere l'europeo. No, perché mi sembra questa la missione, neanche così implicita, no? Tavecchio ogni tanto vincerlo, abbiamo chiesto di vincere l'europeo. Vincerlo mi sembra complesso. Fare una bella figura mi sembra importante. Una bella figura significa arrivare, non lo so, alle finali. Sì, certo. Ma per questo che parliamo di risultati sportivi, io dicevo, parlavo prima della Ferrari, secondo posto in questa stagione di Vettel, sarebbe un grande risultato sportivo. Poi è chiaro che il mondiale lo vince un altro. Per l'Italia un eccellente risultato sportivo sarebbe quella di arrivare in semifinale agli europei. Allora ci fermiamo per il traffico, torniamo subito dopo. Torniamo subito. Tutti convocati. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta Tutti convocati. Io ho letto in questi giorni alcuni aggettivi, alcune situazioni dove sinonimi o altre cose, freddezza, addirittura qualcuno ha scritto gelo. Io credo che siano false notizie queste. False notizie. E quindi il rapporto con Conte, oggi abbiamo pranzato insieme, abbiamo scherzato insieme, siamo diventati amici per la pelle, perché da quei dì abbiamo insieme percorso delle strade che erano in salita entrambi. Dunque, nuovi amici per la pelle, Tavecchio e Conte. Come dico ogni volta per presentarlo, dal piani altissimi di Sky, Federico Ferri. Ciao Fede. Ciao, sono sempre a secondo io. Sempre. Come va? Signor Ferri, come va? Bene, bene. Stavo pensando a qual era l'aggettivo detto da Tavecchio, sì. Però non l'ho capito ancora. Non hai capito? No, ha detto che sono amici per la pelle, che non c'è gelo, non c'è freddezza e così via. Avrai letto Federico Ferri, Pierluigi Pardo, avrete letto il Corriere della Sera di oggi, l'analisi di Mario Sconcerti, immagino. E come no? Come si fa a non leggerla? Il domani ha il nome di Del Piero, dunque Sconcerti è convinto che... Comunque vada, Conte andrà via perché non è il suo mestiere, perché non deve fare allenatore, perché ha bisogno di altri stimoli, perché in qualche modo si è ripulito del suo passato con una parentesi con la nazionale, adesso può anche andare a allenare i nemici. E scrive: Del Piero conosce il calcio come pochi ed è ancora l'ex calciatore italiano più conosciuto all'estero. Qualunque convocato gli darebbe rispetto e disponibilità. È un nome pulito, simbolo di una buona Italia che ce l'ha fatta solo per il talento, il limite sta nell'esperienza. Da allenatore, non ne ha ovviamente, ma non sarebbe il primo grande ex a cominciare dall'alto. La nazionale è un vantaggio, non va allenata, le serve solo uno che la assembli e dia nozioni quasi elementari per gestire la partita. Federico Ferri è grande amico di Alessandro Del Piero, ha lavorato con Alessandro Del Piero per libri, pubblicazioni, spettacoli, presentazioni, e allora io gli chiedo cosa ne pensa di quest'idea. Beh, intanto ti racconto che leggendo questo pezzo oggi mi è venuto in mente quando un paio di volte Sconcerti e Del Piero si sono incontrati qui a Sky. Sconcerti è una cosa che gli dice anche personalmente, non gli avevo mai sentito dire questa cosa dall'allenatore, ma ha ribadito un concetto che poi ha scritto anche nel pezzo, ovvero che secondo Sconcerti, e secondo me ha ragione, è tempo che alcuni dei campioni di quella generazione, della generazione del 2006 o appena precedente, 2006 intendo il mondiale del 2006, prendano delle responsabilità in un momento di disorientamento del calcio in Italia e non soltanto in Italia. E quindi invitava Del Piero, che secondo lui poteva essere un buon dirigente federale o comunque assumere incarichi in federazione, in Lega, perché aveva secondo lui le caratteristiche, anche quell'esperienza internazionale maturata negli ultimi anni di viaggi in giro per il mondo, per fare una cosa del genere. Mi ha sorpreso leggere della questione dell'allenatore del CT dell'Italia, che effettivamente secondo me sul discorso delle caratteristiche che possono essere utili per svolgere quel ruolo, ci può stare. Certamente sarebbe un di là del fatto che possa poi anche essere un po' una provocazione di Mario, però certamente sarebbe un cambio di rotta totale rispetto all'attuale gestione, perché invece adesso l'Italia ha un super allenatore. Sì, sarebbe l'esatto opposto. Ha un allenatore bravissimo, esattamente l'opposto. Cioè non possiamo sapere come sarebbe Del Piero, però in assoluto quella figura che descrive Mario, certamente è l'opposto di quello che adesso è Conte, che è un allenatore a tutti gli effetti, un allenatore di club prestato alla nazionale. È uno che anche in un club massacra i giocatori con un livello di attenzione, di tensione e di ossessivo. Ossessiva attenzione agli allenamenti, che è più pertinente ad un allenatore di club piuttosto che ad un allenatore nazionale. Certo, Pierluigi, tu lo vedi una figura simbolica come può essere Del Piero? Non possiamo metterci Vialli, possiamo metterci degli altri, ma di no, quella generazione che arriva e tac, guida sull'idea, di Sconcerti. Fatto io. O l'Italia ha bisogno di essere allenata. Sconcerti non si discute, si ama, e quindi scegliere. Però in generale io credo, non sono d'accordo sul fatto che la nazionale non vada allenata. Una nazionale va allenata ed è esattamente la sfida di Antonio Conte. Poi è chiaro che è difficile allenarla se li vedi una volta al mese per 24 ore prima di doverti imbarcare su un aereo per andare a fare una partita. Però l'ambizione che Tavecchio e la federazione hanno nell'aver affidato a Conte questo tipo di incarico è l'ambizione di avere invece un allenatore vero e aggiungo molto molto bravo. Quindi sono d'accordo con Federico, penso che sia da questo punto di vista Del Piero quanto di più distante da Conte. Del Piero chiaramente è una figura leggendaria, è un uomo di grande cultura, nel senso di grande curiosità, secondo me. A me ha colpito molto la sua scelta australiana, per esempio, sì, nella parte finale di carriera, perché Federico lo potrà confermare, è stato stata la scelta, prima ancora di un calciatore, è stata la scelta di un uomo che voleva andare a vedere un pezzo di mondo che, certo, che probabilmente non avrebbe visto se non avesse avuto questa opportunità, o avrebbe visto con occhi diversi. Quindi Del Piero è chiaramente un uomo simbolo, è una persona certamente pulita, spendibile, importante, ma l'allenatore è un'altra cosa. Certo. L'allenatore è un'altra cosa. Poi risulta anche che, quello nazionale. Ma risulta che l'ultimo grandissimo risultato l'Italia lo abbia ottenuto con uno che non faceva propriamente il testimonial, no? Marcello Lippi. Ascoltiamo Gianfranco da Verona, poi io voglio interrogarvi sull'altra questione, cioè quella sensazione che ho io di una nuova Europa che stia nascendo in modo concreto, costante e tangibile. Gianfranco. Pronto? Sì, buongiorno. Grazie. Prego, dica. Ascolta un attimo, allora, io non voglio insegnare, non voglio dire niente, vorrei solamente far presente una cosa, attenzione, cioè la squadra nazionale non ha bisogno di giocatori, di allenatori o di altre cose. E cosa? Ha bisogno, cioè, di essere convinti di fare un qualcosa di buono. Naturalmente l'allenatore è importante, l'allenamento è importante, ma sono convinto che lo spogliatoio, ragazzi, è ancora più importante dell'allenamento dei giocatori e dell'allenatore. Il famoso gruppo, società, sì. Ipotesi che naturalmente potrebbe essere Juve, Milan, così via, è lo spogliatoio che crea la squadra. Nella nazionale è un po' difficile trovare, se Conte riesce, che sta già iniziando, a trovare quella persona che potrebbe essere, dico io, Buffon, che potrebbe essere qualche altro giocatore interessante, che riesce ad coordinare, ad aiutare, sì, questo, e volersi chiaro, aiutare Gianfranco, nel momento alla base critico, di tutti, alla base di ogni grandi successi c'è un grande gruppo salvo pochissime eccezioni, e questo è lo racconta la letteratura dello sport. A me sembra un'Italia senza grandi leader, a parte l'allenatore, e di questo abbiamo discusso e ci siamo trovati d'accordo con Pardo mille altre volte. Quindi è evidente che lo spogliatoio è importante, è evidente che ci sono delle regole ferree che Conte fa rispettare. Però io volevo interrogare Federico Ferri sull'altra questione, quella della nuova Europa. Ma sono io un visionario o ho citato le situazioni episodiche della Danimarca campione d'Europa tanti anni fa e poi della la storia della Grecia, ma erano appunto episodi. Ora vedo Belgio e la Polonia che è il più forte centravanti in questo momento del mondo, l'Albania e le due Irlande che sono prossime alla qualificazione, sempre in Gran Bretagna il Galles, l'Islanda che certo non era conosciuta come una nazionale schiacciasassi, che però sta crescendo costantemente, tutte con giocatori forgiati all'estero, e in questo vedo comunque una continuità di crescita e di risultati in una situazione in cui Italia, Francia e Spagna sono in ristrutturazione, l'Inghilterra è l'eterna incompiuta vestita sempre magnificamente con la divisa più elegante del calcio mondiale, l'Olanda è nella polvere, la Germania stenta, e dietro c'è questa Europa che nasce. È una visione? Ragione. È una visione mia? No, è una un'analisi correttissima, al punto che quando abbiamo pianificato all'inizio, un paio d'anni fa, la gestione delle qualificazioni europee qui a Sky, la programmazione, abbiamo detto bellissimo, fighissimo, però con questo nuovo regolamento, con l'allargamento del numero dei partecipanti alla fase finale dell'europeo, può essere che le ultime giornate siano meno interessanti, insomma, che ormai i giochi siano fatti. Invece ancora ci aspettiamo a vivere questi ultimi 2-3 giorni di qualificazione, a cominciare da quello di stasera, con un sacco di situazioni ancora da definire. Questo vuol dire che il livello di competitività è decisamente cresciuto e che sono venute a mancare alcune certezze. Quello che hai detto è verissimo. Aggiungo fra le squadre una che per fortuna nostra, perché nel nostro girone non si è ancora espressa come potrebbe, ma è la Croazia, che ha un potenziale secondo me straordinario. Se gli facciamo il favore di battere la Norvegia, sarà la seconda qualificata nel nostro girone. Quello che penso però è che il tuo ragionamento correttissimo deve avere una riprova, una conferma, che è quella finale della manifestazione dell'europeo. Perché nelle qualificazioni anche in passato abbiamo assistito a sorprese. Sì. Ogni mondiale riserva poi nell'europeo successivo una sorpresa o due di squadre, vedi l'Italia, certo, 82, eccetera, è un po' poi fallito, Federico, è un po' come le africane, no? Sì. È un po' come come la vecchia leggenda delle africane, insomma, chi ha 40 anni come me sa che ormai da una trentina d'anni le africane ovviamente sono in grandissima crescita, hanno avuto fasi alterne, ma insomma ogni mondiale partiva come questo è l'anno giusto, il mondiale giusto per vedere veramente una grandissima sorpresa. Poi siamo fermi al quasi expo del Ghana nel 2010, a alcune imprese episodiche come il Camerun nel 90, la vittoria con l'Argentina. È un po' lo stesso discorso, cioè sono squadre che dal punto di vista della qualità sono cresciute moltissimo, ma il calcio, questa cosa qui è bellissima, perché il fatto che il calcio si stia livellando è perché il calcio è stupendo. Quindi il calcio ha una capacità di penetrazione nel vissuto sociale di ogni posto del mondo pazzesca, che fa sì che si giochi sempre di più in ogni parte del mondo, e inevitabilmente anche chi aveva meno la tradizione del calcio riesce ad avvicinarsi, no? E quindi nascono grandi talenti ovunque in giro nel mondo. Sì, poi vanno in giro per il mondo a crescere, perché sono tutti giocatori, esatto, che arrivano dal Belgio alla Polonia, esatto, all'Albania, all'Irlanda, all'Islanda. Però sono d'accordo che poi la controprova, se ci sarà, è la grande competizione. È la grande competizione. Secondo me è la squadra che ci deve dare la controprova, per il discorso che faceva prima Carlo, perché è veramente un all-star di giocatori che sono andati a crescere altrove e che si ritrovano lì per in nazionale a formare un gruppo che potenzialmente è fortissimo. Al mondiale così, bene ma non benissimo, vedremo se in questo europeo potremo avere la riprova di una squadra totalmente costruita all'estero, nel senso come crescita calcistica, che poi in nazionale forma un gruppo che può battere le squadre decisamente più importanti. Questo può essere un importante test di prova anche per i mille ragionamenti che facciamo sul calcio italiano. Federico, grazie, alla prossima. Grazie a te, grazie a voi, ciao Pier, ciao Federico Ferri. Pier, stai lì, abbiamo la borsa, come sai. Poi torniamo, 800 24 00 24. È sicuro? 100%? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar, ce l'ha con te questo? Ma no, ce l'ha con te. No, ce l'ha con te. Ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì, perché c'è una grande novità. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24 c'è Attenti a noi due. Che poi siamo noi due, Oscar noi Giannino due. E Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì e venerdì. Attenti a noi due. State ascoltando un programma offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Che dire? Arrieccici. Tutti convocati. Io ho 50 anni, siete pure di merda, non mi fai parte. Mi venite a chiedere pure per voi, siete una banda di pezzi di merda, oltre che siete lo scandalosissimo, qual è chi di voi? È chiaro? È chiaro? Voi siete delle merde uguali! Il primo che chiara giuro sui figli di calcio contro una squadra di promozione, vergognatevi, voi non siete degni! La squadra di promozione! Io vi squarto, se voi avete deciso di giocare con la mia famiglia, io vi squarto. A quando chiusi da sta? A parlare, pu, siete scandalosi! Non siete in grado di superare nell'uno contro uno un giocatore di promozione. Siete lo scandalo! Figure di merde come queste nella mia vita non ne ho mai fatte. Nessuno che si permetta il premio, va già scandato! Il premio che vi ho portato qui a parecchi voi. I Vescani si perdono la catalisi. Vi giuro sui figli Vescani! Ne metto 10 fuori lista! 10! Croce, com'è buono lei! Forse se Milan cercava un vero sergente di ferro ha sbagliato indirizzo. Doveva andare ad Arezzo e prendere Eziolino Capuano, non nuovo a queste sfuriate. Dopo questa partita infrasettimanale persa, come forse avrete intuito, non so se l'avete intuito oppure no, contro una squadra di promozione, l'Arezzo che è in Lega Pro, Capuano va nello spogliatoio e fa quanto avete sentito. cioè dice due paroline, giusto così, di forma, e viene ripreso con il cellulare da un giocatore rimasto misterioso. Morale, ieri Arezzo Carrarese, quanto è finita per Luigi Pardo? 1-4. Ecco. Non risulta sia stata chiamata la polizia, non c'è nessuno in carcere, tutti state tranquilli, però pare che sia venuto fuori il colpevole del video, dovrebbe essere Nicolò Sperotto che verrà messo fuori rosa. Questa è la conseguenza che verrà praticata. Tutto molto bello. Bruno. Tutto molto bello. Massi. Walter da Torino, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Io volevo intervenire con due riflessioni, una sulla nazionale, cioè sul valore delle nazionali che parteciperanno agli europei. Sì. Secondo me raddoppiando il numero a 24 è chiaro che partecipano anche nazionali che magari fino adesso, tipo l'Albania, non aveva mai avuto la possibilità. E quindi secondo me il livello medio potrebbe essere ulteriormente abbassato da questo discorso. Il secondo invece, per quello che riguarda il CT, faccio un nome, visto che sono di Torino, del Toro, Ventura. Potrebbe essere alla fine della sua magari grandissima esperienza torinese, potrebbe essere un grande CT. Sì, ma di nomi, Walter, di nomi ne possiamo fare mille, di profili ne possiamo tracciare tantissimi. Al momento è Antonio Conte, quindi rimane poco più che una suggestione. Quanto a livello più basso non lo so, per il discorso che facevamo prima, perché ci sono nazionali che stanno crescendo, ad esempio il Belgio secondo me è molto forte, deve consacrarsi, lo dicevamo prima, la Polonia è una signora squadra e ha il miglior centravanti europeo in questo momento, l'Islanda gioca molto bene, l'Olanda è finita fuori, quindi non so se sarà un europeo di livello più basso per via dell'allargamento. Si tratta di vedere in che condizioni si presenteranno anche le big, no Pian? Sì, ma assolutamente. Poi ovviamente con tutte le competizioni appunto di fine stagione in qualche modo risentono anche del livello di spremitura dei giocatori che in certi casi aumenta soprattutto nei campionati più importanti, quindi sì. Ci sono mille incognite da vedere. È vero quello che dice l'ascoltatore, sicuramente 24 squadre significa che ci sono proprio anche numericamente, matematicamente, aritmeticamente più spazi per realtà alternative, però sono successe delle cose, ecco l'Islanda che domina il suo girone l'Albania che vince il Portogallo, insomma sono cose che francamente erano difficili da ipotizzare alla vigilia, ma ripeto è un segno del fatto che il calcio, ma da tanti anni, non soltanto da adesso, diventa sempre più globale. È un processo continuo, stiamo arrivando alla maturazione di un processo iniziato da un po'. Sì, ripeto, è una cosa bellissima, cioè l'idea, ed è una cosa che racconta della forza incredibile di attrazione e di crescita che il calcio ha nel mondo. Quindi certo. 20 anni fa o 30 anni fa il pallone si giocava a certi livelli soltanto in 5, 6, 10 paesi importanti, 4-5 paesi europei e un paio di paesi sudamericani. Adesso ci sono movimenti interi e strutture anche dirigenziali che stanno crescendo. Abbiamo un signor allenatore al telefono. Prego. Eugenio Corini, buongiorno. Buongiorno a voi. Ciao Eugenio. Senti, io parto banalmente, visto che stiamo raccogliendo opinioni, dalla tua valutazione su Conte, sul suo lavoro, sulle possibilità di tenerlo sulla panchina della nazionale oppure no. Poi voglio parlare di un'altra cosa però, perché a volte ritornano non solo gli allenatori ma anche i moduli. Il lavoro di Conte secondo me è stato straordinario, insomma venivamo da un mondiale oggettivamente difficile e lui secondo me è stato molto bravo nella capacità insomma di fare il risultato, perché l'obiettivo di arrivare all'europeo, per quanto poi si dica ad obiettivo conquistato che era normale per una nazione come l'Italia, però da dove eravamo partiti è stato secondo me un grande risultato ottenuto sicuramente con una squadra solida che non ha segnato molto ma ha anche subito molto poco e la grande capacità dell'evoluzione che ha avuto nel capire le caratteristiche dei giocatori e cambiare un sistema di gioco che gli aveva dato grandi soddisfazioni, ma lì secondo me la grande capacità sua l'aveva già dimostrata la Juventus, capendo che Pirlo probabilmente avrebbe reso meglio con tre difensori centrali alle spalle, e si era evoluto in questo 5-3-2 che poi ha fatto la fortuna della Juventus. Sì, invece adesso a volte ritornano, dicevo, anche i moduli come il 4-4-2, il vecchio solido, se vogliamo superato 4-4-2, Conte lo usa, poi diventa 4-2-4, muove gli esterni lungo sulle corsie, ma poi non è il solo, perché c'è l'esempio dell'Ecuador che con questo modulo ha vinto in Argentina. Di Allegri si dice che in fondo il suo sistema in fase di non possesso palla sia un 4-4-2 in maschera. Mihajlovic magari utilizzerà questo modulo a Torino, ma lì anche per dicta presidenziale. Insomma, è un modulo che sembrava da libri di storia e che invece, come vedi, può tornare. Ma sì, è sempre molto attuale, lo dimostra l'Atletico Madrid che ha costruito la sua fortuna vincendo la Liga, arrivando in una finale di Champions che stava vincendo fino al 90esimo minuto. C'è sempre poi un'evoluzione, a parte diciamo la facilità nel disporre in campo un sistema dei giocatori, ma come poi li fai muovere i giocatori, cosa chiedi a loro, come li fai lavorare insieme, che fa la differenza. E il 4-4-2 sarà sempre sicuramente un modulo importante, dipende poi dalla bravura dell'allenatore nel miscelare le caratteristiche, nel far lavorare insieme i giocatori. Sì, è un modulo che a noi piace, Pardo, un modulo che c'è simpatico, almeno a me è simpatico. Guarda, la rivoluzione l'ha fatta Sacchi. Sì. La rivoluzione in tempi moderni l'ha fatta Sacchi, l'aveva in qualche modo ipotizzata Eriksson, il primissimo Eriksson, quello degli anni 80, col Göteborg, col Benfica, poi anche con la Roma, e poi l'ha fatta Sacchi, che ha cambiato completamente l'approccio, i metodi di lavoro, i metodi di allenamento, ha cambiato la concezione filosofica del calcio, questo famoso discorso che abbiamo sentito mille volte dell'orchestra, che lui ripete in maniera anche ossessiva, però è la verità. E la verità è che Sacchi ha cambiato il calcio con questo tipo di ragionamento, cioè l'idea che il collettivo possa, con tutta una serie di atteggiamenti e giocando insieme, possa essere più importante della somma dei singoli. Poi a quel punto diciamo la zona è diventata il punto di partenza, e poi si può discutere, certamente, il 4-2-3, noi facciamo il discorso per quanto riguarda Sarri, vorrei sentire anche Eugenio Gorini, perché Sarri una prima rivoluzione l'ha fatta passando a tre a centrocampo, proteggendo quindi di più la difesa, e la seconda soluzione l'ha fatta dopo qualche settimana scegliendo i tre in linea, cioè scegliendo il 4-3-3 che si adatta meglio alle caratteristiche dei giocatori. Il 4-2-3-1 funzionava, aveva funzionato nella Roma di Spalletti perché c'erano giocatori con quelle caratteristiche, ma insomma, mi sembra che poi alla fine sono tutti adattamenti. Il 4-4-2 mi sembra che rimanga il modulo di partenza di questo tipo di calcio moderno, che poi a seconda delle caratteristiche dei giocatori che hai adatti in un modo o nell'altro. Certo, ci fermiamo un attimo per il traffico, un secondo e torniamo. Però il pubblico è un po' moscetto. Tutti convocati. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. Tutti convocati. Penso che è un gruppo che ha iniziato dal primo giorno di ritiro seguendo l'allenatore e cercando appunto di capire quello che lui chiedeva in campo. Io le sensazioni che ho avuto anche da Higuaín, dai compagni magari tra virgolette più importanti che possono guidare la squadra, è quello che c'è affiatamento nel gruppo, che c'è voglia di fare bene, c'è voglia di continuare a stupire e soprattutto di raggiungere dei grandi risultati tutti insieme, perché quella lì è la strada. Questo era Valdifiori, interprete del Napoli, scudiero fidato di Maurizio Sarri. C'è Pardo che ha chiesto un giudizio ad Eugenio Gorini su quanto sta facendo Sarri, sul modulo e sui cambiamenti che ha portato in questa squadra, che sono decisivi. Sì, io penso che Sarri, nell'evoluzione che ha avuto, lui nasceva con un 4-4-2 sacchiano nelle categorie inferiori, un modulo con cui si era presentato anche a Empoli. E lì ebbe la grande capacità di capire che Saponara poteva essere un grande trequartista, e quell'Empoli, da quando poi cominciò a giocare 4-3-1-2, fece i playoff già il primo anno, vinse il campionato l'anno successivo, e poi insomma abbiamo visto quello che è riuscito a fare l'anno scorso a Napoli. Si è meritato una grande panchina ad Empoli, si è meritato la grande panchina del Napoli, e questo lavoro si è tramutato nel capire che le caratteristiche dei giocatori del Napoli si adattavano benissimo al 4-3-3, ed è stato molto bravo. Difatti così protegge meglio la difesa, riesce a essere incisivo in attacco, e sembra veramente una squadra nata per quel sistema, e lo sta esprimendo al massimo. Pierluigi diceva anche un'altra cosa fondamentale tra le righe: è stato umile e intelligente a voler cambiare il modulo, il suo disegno, quella che è la sua idea di calcio. Ci sono molti di voi allenatori sono integralisti, cioè il mio calcio è questo e lo gioco così a prescindere dagli interpreti. Ma io penso che la grande capacità di un allenatore sia capire che a volte se hai dei giocatori che fanno la differenza in un determinato ruolo. Come dicevamo prima, si parlava di adattamenti, e secondo me se nella fase di non possesso, ma anche nella fase di possesso, a volte un piccolo adattamento rende funzionale un sistema di gioco e mette nelle condizioni il calciatore di talento di esprimersi al massimo e magari generalmente di far lavorare bene anche la squadra nel suo complesso nella fase di non possesso, quello che ha dimostrato il Napoli in queste 6-7 partite. Perfetto, grazie Eugenio. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao Eugenio Gorini. Piero, sì. Soddisfatto della risposta del sì, del, mi sembra lineare, cioè il grande allenatore non è quello che picchia la testa contro il muro, ma quello che valuta le situazioni. Maurizio Genova. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno. Ma ho sentito bene prima, cioè che si stava pensando alla possibilità, se fosse, diciamo, Conte in uscita dopo gli europei, di sostituirlo con Del Piero. Questa è un'idea di sconcerti. Ma è come se togliessimo il sergente Hartman di Full Metal Jacket e lo rimpiazzassimo col passerotto della nota acqua minerale. Cioè, non credo che abbia tutto il suo carisma sto ragazzo, che è un gran bravo ragazzo, no, per carità, gli voglio bene, ma santo Dio, ma insomma una via di mezzo. Beh, infatti non l'ho capito, sconcerti, lo dico con affetto e con una stima enorme. Però non, nello specifico non sono molto d'accordo, ripeto, perché secondo me poi alla fine invece si cerca un grande allenatore. Cioè il fatto che ci siano meno margini e meno tempo per poter allenare una nazionale rispetto alla squadra di club è oggettivo, ma questo non deve portarci ad abdicare all'idea di poter allenare. Bravo. Che poi magari Del Piero sarà un allenatore fantastico, perché non, ma come facciamo a sapere? Non ha mai allenato un minuto in vita sua. Però il suo indiscusso talento e il suo straordinario carisma e la sua qualità umana, che è fuori discussione, è da sola non basta come garanzia in tutto questo. Per cui se Del Piero ha voglia di fare una carriera di questo tipo, la facesse assolutamente, gli facciamo un grande in bocca al lupo e sarei interessatissimo e intrigatissimo dall'idea. Però l'idea che da solo il carisma, per Del Piero come per molti altri, possa bastare per allenare una nazionale mi sembra eccessivo, no, ma non, soprattutto in questo momento di estrema sofisticazione, no, del calcio, cioè. Punto. Poteva essere qualcosa, cioè Beckenbauer ha fatto CT, Platini ha fatto CT, ma era un'altra era geologica, io ho l'impressione. Luca, provincia di Monza. Ciao, buongiorno a tutti ragazzi. Ciao. Ciao. Allora, io volevo discostarmi un po' dal democristiano Corini, che mi è parso un po' troppo buttonato per i miei gusti. Su cosa? E ho elaborato questa finissima teoria sul motivo per il quale noi avremo delle difficoltà all'europeo, ed è che noi in attacco siamo delle pippe. Io ho visto un po' le partite, ho visto un Esharawi un po' ballerino che danza sulle punte, Pelé che è forte fisicamente, però secondo me se metti un giocatore di NBA grosso gli insegna a tirare è simile. Il buon Insigne sono in 2 anni le prestazioni che ha fatto non è che sono tantissime, quindi al di là mi rendo conto che voi avete dei ruoli istituzionali e non si può dire che sono delle pippe, però si può serenamente, nel caso in cui lo pensassimo potremmo farlo, lo diremo, assicuro, serenamente lo sicuramente non abbiamo, guarda, tanto per essere chiari, è ovvio che non abbiamo Lewandowski, l'attacco degli anni 90 Cristiano con Lewandowski. Quindi è ovvio, no? Questo Higuain. Se guardiamo l'attacco dell'Argentina e quello dell'Italia, potremmo anche decidere di andarci a casa prima ancora per qualsiasi competizione. Sì. Però mi sembra invece che insomma siamo i soliti, siamo quelli, come diceva Corini, non abbiamo fatto una grandissima qualità dal punto di vista del gioco offensivo, però abbiamo preso pochi gol, alla fine i conti qui sono... Tornano abbastanza, sì, tornano. Poi le sai, le competizioni brevi sono competizioni strane, io ieri citavo l'esempio del 2004 con la clamorosa vittoria della Grecia, senza arrivare a quello che se vuoi è il paradosso. Però insomma, poi non è che l'europeo o il mondiale lo vinca sempre la squadra migliore, la più spettacolare, quella più forte come talento. Spesso la vince la squadra che riesce a giocare meglio in quei 20 giorni, in quel mese, che ha delle caratteristiche di talento sufficienti, che però secondo me noi abbiamo, e poi una congiunzione astrale straordinaria, una compattezza che avere, è quella sulla quale dobbiamo puntare. Detto che avere il giocatore, cioè ormai non è neanche più l'epoca dei tormentoni, Totti, Del Piero, Zola, Baggio, cioè, abbiamo vissuto a lungo su queste cose, su questi tormentoni. La sensazione è che però nella competizione breve, te lo dicevo anche ieri, il giocatore in grado di tirare fuori il colpo in una partita carogna può fare spesso la differenza, ma magari lo troveremo strada facendo, perché io non lo escludo. E su Insigne non sono d'accordo, perché in questo momento è un super giocatore all'ordo degli infortuni. Ciao Pierluigi, sentiamo domani. Una cosa irrazionale, io con Conte in panchina mi sento abbastanza tranquillo. Sì, poi non è detto che vada bene, però cioè, penso che quello che potremo fare in termini di compattezza lo faremo. Poi se non basterà, perché ci sono squadre più forti e sicuramente più talentuose, questo è ovvio, però mi sento abbastanza ottimista. Sì, sì. Ciao Pier, sentiamo domani. Sì, ciao, stessa ciao. Ora, stessi schermi, stessa ora. Noi ci fermiamo per il GR, ma torniamo dopo. Siete uno sputo! E già, voi siete delle merde uguale! Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Logisticamente Modul Block, dal più piccolo magazzino semplice o automatico al più complesso centro logistico. Tutti i giorni alle 9 Mix 24 con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Secchi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. State ascoltando un programma offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Si ricomincia. Tutti convocati. Le condizioni stavano cambiando perché comunque non pioveva più, si cominciava a formare una riga un pochino più chiara, e lì è iniziata un'altra gara, perché era veramente difficile controllare la moto, anche psicologicamente molto stressante, perché è molto facile fare un errore. E quando mi è passato Dani ero un po' preoccupato, perché ho detto: se Dani mi passa a me ma non passa a Orge, e sono altri 9 punti persi, quindi ho cercato di attaccarmi a Dani, a fare 2 o 3 giri con lui. Anche i conti, no? Sì. E poi ho visto che però anche Orge era in difficoltà con le gomme, e poi ha fatto un errore, quindi comunque essere riuscito a guadagnargli 4 punti era il nostro obiettivo, e quindi siamo molto soddisfatti. Io penso che un'altra volta abbiamo avuto un po' di sfortuna con il tempo, questa volta perché prima perché ha piovuto, perché magari in asciutto era il più veloce, che teneva più ritmo, e dopo perché ha lasciato di piovere, che si è asciugato, è impossibile seguire il ritmo che teneva soprattutto Dani, però anche Valentino. È peccato, però alla fine solo ho perso 4 punti, no? E tra poco accendiamo anche i motori, li facciamo cantare, perché ieri ne abbiamo viste delle belle tra Formula 1 e Moto Mondiale, molto più intrigante e forse decisiva la tappa di Motegi per quanto riguarda Moto Mondiale, ma ne parliamo tra un poco. Tra l'altro tra poco ci sono notizie incoraggianti quanto alle condizioni di Alex De Angelis, che ha avuto quel terribile incidente, come sappiamo, nelle libere di sabato. Ebbene, l'ematoma intercranico non è diminuito, ma le condizioni sono stabili, le contusioni ai polmoni sono leggermente migliorate, il pilota sammarinese parla e non ha problemi di orientamento, quindi la situazione resta grave ma stabile, tendente al miglioramento. Prima due ascoltatori però, 800 24 00 24 numero verde, Mauro, provincia di Venezia. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Un vostro parere: secondo voi il muretto della Ferrari ieri non poteva gestirla meglio? E nel senso, se faceva, visto che aveva due rosse una dietro l'altra, se faceva la stessa, almeno con una delle due, l'azzardo di fare la mossa che ha fatto Perez, oggi potevamo raccontare una storia diversa? Ma mi sembra che la storia che raccontiamo non sia male, no? Non credo in tutta sincerità, Mauro. Poi lo chiediamo al professor Terruzzi. Qui chiediamo un'opinione al professor Terruzzi, ma non credo fosse battibile con alcuna strategia possibile Lewis Hamilton ieri. Io credo invece che la Ferrari abbia fatto una gran cosa, stia facendo una gran cosa con Vettel, che è un meraviglioso computerino, nel agganciare il secondo posto nella classifica piloti. Sarebbe un risultato, viste le premesse di inizio mondiale, strepitoso. Se poi si riesce ad aggiungere il paradiso, cioè quella quarta vittoria famosa, allora credo che il barometro possa volgere al bello. Giuseppe Padova, buongiorno. Ciao, grande. Ciao. Allora, intanto programma vostro, professionalità, qualità e intelligenza da ascoltare tutti i giorni. Grazie. Senza ricetta del medico. Poi, grazie, cosa per che il mi promo. Interessa? No, beh, insomma, è importante, quando sono questi programmi qua è sempre piacevole, un'ora veramente interessante. Volevo dirti questo, parlo di nazionale perché di motori non ci capisco nulla. Di quello che vuoi. Perfetto. Lancio un'idea che ho sentito per radio, non mia, di Fabio Caressa, domenica, che l'ho ritenuta intelligente. Perché le nazionali non le concentriamo negli anni dispari con una sorta di torneo di prequalificazione nel mese di giugno, che possono garantire A, un attaccamento migliore, perché un giocatore tutto l'anno si impegna per arrivare a questa sorta di prequalificazione, B, i club non ne risentono, non ci sono infortuni, non ci sono i fatti che sono accaduti tipo Insigne, vado, non vado, resto, non resto, e forse anche la maglia, come dice Florenti, la si tatuerebbe di più addosso la pelle. Questa così è un'idea, non mi dispiacerebbe come soluzione, sarebbe anche un modernizzare quello che è le varie, i vari passaggi all'interno del nazionale. Guarda, non ci dispiace, al punto che l'abbiamo ad esempio anche ieri sottolineata questa formula, che sarebbe quella perfetta parola per parola, come hai detto tu e come mi dice, ha detto Caressa. Insomma, è un punto su cui possiamo essere tutti quanti d'accordo. Negli anni pari hai la grande competizione mondiale europeo, negli anni dispari hai comunque quel mese di nazionali in cui fai tutte le qualificazioni e le partite che devi fare. Sarebbe la soluzione, ma penso che insomma non sia stata inventata da Caressa né da me né da te. Penso sia una soluzione semplicemente di buon senso, per le ragioni che tu hai sottolineato, Giuseppe. Vi avevo anticipato il professor Terruzzi, eccolo qui. Buongiorno. Buongiorno a lei, come sta? Bella vita. Io volevo partire con te da Motteghi, però c'è un ascoltatore che ha sollevato un quesito, Giorgio. Ha detto, ma con una strategia diversa tipo quella di Perez, la Ferrari ieri non poteva fare addirittura di più? Di più del secondo? No. Penso anch'io. Forse poteva mettere meglio Raikkonen, non in mezzo al casino. Però insomma sì, può essere, questo può essere. Però non era il Moro, l'eccentrico Moro non era avvicinabile da nessuno. Ma avvicinarlo, fa quello che vuole ormai. Sì, fa decisamente quello che vuole. C'eravamo illusi a un certo punto, sogno estivo, no? Si vince quell'ultima gara, ma contiamo i punti, magari andiamo a prenderlo, ma era una pia illusione. No, diciamo, secondo me davvero non ci ha pensato nessuno, no, neanche Vettel. Sono d'accordo. Senti, però dimmi delle tue impressioni su Motteghi. Io ho la sensazione, basato su niente, che questi 14 punti che sono diventati 18, lo sviluppo della gara di ieri abbiano dato a Rossi un abbrivio importantissimo. Non vuol dire che è stata decisiva la corsa di ieri, ma questa sensazione ce l'ho. Ma no, io dico che l'abbrivio sono i punti, quelli lì. Sì. Perché è uno sport dove un attimo perdere un patrimonio di quella misura lì o anche di più. Io sono abbastanza sorpreso dalle occasioni che ha perso e sta perdendo Lorenzo. Addirittura è come se in qualche modo volesse evitare, ma questa è una mia impressione, il corpo a corpo, non so. Cioè, ieri ha fatto una prima parte di gara un po' scellerata. Non so, mi sembra che il bilancio di Valentino rispetto a Lorenzo, che è un'ira di Dio quando si mette, è clamorosamente inattivo. Se ci metto dentro l'unica gara che Valentino ha sbagliato, che si è trasformata, parlo di Misano, in un vantaggio ulteriore con Lorenzo caduto in una situazione del genere, certo. Cioè, mi sembra che il dato più eclatante, a parte quello che è stato detto e che diciamo possiamo ridire di Valentino anni 36, ma il dato più eclatante è la fragilità o comunque la scarsissima lucidità di Lorenzo. Sì. io credo che Valentino lo sappia benissimo e penso anche che abbia già cominciato con i mind games, dicendo non è vero che è stato sfortunato, non racconti queste storie e impari a rispettarmi. Ecco, sì, questa cosa qui è un elemento che Lorenzo avrebbe potuto evitare, perché se c'è una cosa che a Valentino lo ha attizza, sì, sono le polemiche, le prese di punta, no? E quindi secondo me fa meglio a Valentino che a Lorenzo bisticciare un po', insomma, buttare lì un po' di polemica. Sì, sì, anche perché la capacità di reggere la pressione psicologica è il grande vantaggio di Rossi in questa condizione. Invece, nel Gran Premio di Putin, dei colbacchi e delle ombrelline bionde alte, Hamilton ha chiuso la pratica, innanzitutto quella per il Mondiale Costruttori, hanno festeggiato con lo champagne, come vediamo, anche se io preferisco il Barbera, come tu sai. Ma quel colbacco lì ne parliamo un attimo, no? Di cosa? Del colbacco? Sì, sì, che ne parliamo. Ma è inguardabile, porco. Orrendo. Mamma mia, che roba brutta. Si sono inchinati al volere di Sua Maestà Putin, no? Credo. Sì. In omaggio a Sua Maestà Putin si sono infilati l'orripilante col bacco. Ecco. Ombrelline comprese, peraltro. Ecco. Invece Hamilton che chiude la pratica, Rosberg anche lui come la Ferrari non ci credeva più da tempo, gli si è rotto l'acceleratore come succede ai guidatori della domenica e, sì, è proprio un po' perso quel ragazzo, è un po' sfortunato, devo dire che ieri era il suo giorno, avrebbe potuto e dovuto provarci, è un po' sfigato, però non si incazza, è quello che io sono sbalordito dalla mancanza di rabbia e di furore, no? Sì. Cioè, perdi e ti girano un po' le balle, dovresti essere molto più un po' meno diplomatico, insomma, anche Bottas ieri che dice perché sono così politicamente corretti questi ragazzini qui? Anche Raikkonen che dice, puoi anche dirlo, no, ho sbagliato, ho fatto una maronata, perché è evidente, no? Ma a quel punto lì dove andavo, amore? A quel punto lì andavi contro quell'altro, sì. Allora. Ma tu oggi ne scrivi a lungo, no? della corsa un po' sclerotica, diciamo così, di Kimi Raikkonen, che ha fatto Penelope, o ha fatto la cicala, o ha fatto la mucca che riempie il latte e poi lo butta per terra, veramente intermittente, no? Sì. Cioè, lui fa delle cose belle, bellissime, onestamente da un po' che non ne fa, ma fa delle buone cose e delle cose orripilanti da tanto tempo. So che io quando dico questa roba qui c'è una tifosa, uno zoccolo duro di Raikkoniani che stravede, ma insomma, romantico Raikkonieri, romantico Villeneuve che tiene dietro 10 macchine per 70 giri e vince ogni tanto e vince in modo straordinario, insomma, mi sembra un po' sopravvalutato, onestamente, a questo punto, un po' sopravvalutato rispetto ai suoi compagni, che ormai cominciano ad essere un po' tanti. Sono cento che punti di differenza anche quest'anno da Vettel, con un compagno quest'anno che invece è un esempio, no? Potrebbe imparare un po'. Sì. Quindi pensi che sarebbe stato meglio pensare a un'altra soluzione, mentre il contratto gli è stato reinchiostrato anche per l'anno prossimo al biondino? Io sì, cioè penso che era il caso forse di dare una chance a qualcuno che può dimostrare qualcosa, insomma, non a Bottas che costava l'ira di Dio per quello che è, che insomma è uno che va come Massa sostanzialmente, no? Giorni alterni, un altro incostante, un altro che ha le sue piste e le sue croci. Però insomma io avrei fatto una puntatina su un ragazzo, su qualcos'altro. Il problema è che il destino dei piloti passa attraverso molte questioni, quindi insomma, probabilmente è difficile, non so, probabilmente se dovevo avere due piloti tedeschi, penso a Hülkenberg, era una complicazione. Giovani liberi non ce n'è tanti, però insomma vabbè. Si è andati con la soluzione della conservazione, però quello che dicevo probabilmente prima, va bene a Vettel, lo dico, che è fondamentale in questo senso, probabilmente a Vettel va bene avere Raikkonen. Sì, ma infatti lui è tutto contento, non ha mai nascosto la sua felicità per per il rinnovo del contratto di Raikkonen. Però vorrei parlare con te di risultati sportivi, se mi permetti. Dicevo prima che se Vettel dovesse confermare il risultato conquistato ieri, cioè secondo posto nella classifica mondiale, magari aggiungendoci un pezzettino di paradiso, che sarebbe quella quarta vittoria, sarebbe stato un risultato sportivamente straordinario per la Ferrari, viste le premesse. Sei d'accordo, sì, o no? Sì, assolutamente. Ma guarda, io penso che arrivi terzo, perché oggettivamente è molto probabile che Rosberg metta assieme i punti sufficienti per stargli davanti, visto la macchina che ha ora della fine del campionato. Però la sua annata è stata straordinaria con quello che succede qui alla fine, non soltanto in termini di qualità, di rendimento, con una macchina che è migliorata moltissimo sul motore, meno sul telaio, ma insomma che devo dire è avvantaggiato dal fatto che gli altri sono un po' scomparsi, no? Sì. gli altri che navigavano in quell'area lì post alle spalle della Mercedes. Però lui è stato molto bravo a gestire un'improvvisa popolarità, cosa che alla Red Bull, nonostante 4 mondiali, non certo. E poi di entrare dentro una squadra che lo adora, perché lui sa fare, è molto intelligente, molto umile, molto sveglio, quindi lui si è conquistato una posizione di leader e è molto amato dentro la squadra, e questo è un suo merito, guardando avanti soprattutto. Cioè, se parliamo di una squadra che magari imbrocca la macchina l'anno prossimo, imbrocca la macchina intendo una macchina che vince, quindi che, come sempre succede, una buona macchina significa aprire un ciclo, aprire un periodo fortunato, un periodo felice. Sì. Beh, insomma, lui mi sembra che si è messo in una posizione perfetta dal punto di vista del carattere, dell'approccio, molto migliore rispetto a quella di Alonso, allora, che è più sei uno che ti cinguetta nelle orecchie, ma siete tutti scemi un giorno, motore da GP2 e ieri gli hanno detto cerchiamo di arrivare con Bottas, ma amo il vostro senso dell'umorismo, non è facilissimo andarci d'accordo, no? No, è complessa la questione. Devo dire che io ho un debole per Alonso pilota, cioè, io lo capisco, anche perché è uno che avrebbe potuto e dovuto vincere di più, lui è il primo a saperlo, anzi lui è il primo a pensarsi dalla mattina alla sera, e quindi c'è questo nervosismo più marcato. Questo, insomma, sì. La storia è andata un po' male lì, per molte ragioni, anche per un po' di sfortuna, però di fatto invece questa qui ha tutti i presupposti perché sia una buona storia, anche se poi alla fine conterà la macchina che fanno, che stanno facendo. Questo è chiaro. Grazie Giorgio! Ciao, grazie Giorgio Terruzzi. Allora, ieri Massimo da Roma, buongiorno. Buongiorno, salve. Salve. Volevo dire una cosa della Nazionale di cui sono un grandissimo tifoso. Sì. Questa idea di Caressa, di fare tutto negli anni dispari, è molto bella, però io ho una piccola perplessità, ma le società manderebbero poi i giocatori tutti gli anni a farsi un mese con la nazionale, con il rischio di averceli poi infortunati, stanchi per tutto l'anno? Non rischieremmo di avere dei tornei invece di qualificazione con giocatori di seconda linea? Questa è la mia unica perplessità. Allora, prendiamola pure come idea Caressa, anche se mi sembra che non sia nuovissima, però lei deve guardare anche il rovescio della medaglia. Allora, i giocatori in nazionale, quelli chiamati, ci vanno più o meno volentieri, no? Come sappiamo, più o meno con la benedizione del club. Allora, io sono un club, preferisco che mi rompano le scatole ogni 2 mesi portandomi via i giocatori, impedendomi di allenarmi con continuità, magari restituendomeli infortunati in momenti decisivi della stagione, oppure preferirei farmi tutta la mia stagione d'un fiato, senza soste per la nazionale, senza amichevoli, senza raduni, senza college, senza cos'è che voleva Conte, Giorgio De Luca, gli stage, senza tutte queste cose. I giocatori stanno con me, mi alleno a ranghi compatti sempre, rispetto il calendario nazionale ed internazionale a stagione finita, perché ci sarebbe in questo modo la possibilità di chiudere la stagione, facciamo alla fine di aprile, facciamo i primissimi di maggio. A quel punto chi deve andare in vacanza va in vacanza, chi deve andare in nazionale va in nazionale, e poi ci sarebbe la possibilità di avere, come succede dopo i mondiali, un po' di riposo per chi è andato in nazionale. Sarebbe un prodotto lasciatemi usare la parola prodotto, anche dal punto di vista così dello spettacolo televisivo estremamente interessante, piuttosto che la partita del venerdì sera ad ottobre o del martedì sera come capiterà domani contro la Norvegia. Sarebbe qualcosa di molto più intrigante. Ogni anno ci sarebbe il mese delle nazionali e lì andrebbe concentrato tutto, grandi eventi mondiali ed europei e qualificazioni secondo una formula da stabilire. Quindi mi sembra una soluzione semplicemente di assoluto buon senso. Facciamo in tempo a sentire due voci? Sì, ce la facciamo, perché ieri si è concluso, a proposito di mondiali, quello dell'Italia del rugby, che ormai sapevamo non poteva più qualificarsi, ma ha battuto la Romania 32-22 e sarà la partita che segnerà il momento in cui si dovrà per forza girare pagina. Vi faccio sentire le voci di Allan e di Gori. Ci ha dato molto la nostra nazionale e oggi abbiamo giocato specialmente per lui. Era per lui questa vittoria e sì, stasera sicuramente gli daremo un altro addio, diciamo, in bocca al lupo per la sua prossima parte della vita. Tutti sapevamo che questa partita doveva essere anche un po' sua, perché ha dato tanto a questa nazionale, ha dato tanto a ognuno di noi col suo esempio, con quello che fa sempre in campo, per cui se lo meritava, forse si meritava qualcosa di più, ma sono sicuro che lo dimostrerà anche fuori dal campo nei prossimi anni. Insomma, è una grande persona e tutti noi lo stimiamo. Parlavano ovviamente di Mauro Bergamasco, che ha dato la dire alla nazionale, e noi ci fermiamo qui. Giorgio De Luca, Gianmarco Ferronato e Giovanni Melchiori, ci sentiamo domani alle 2. Bene, molto bene. Il Trap apprezza, lo sentite?